sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Aperto a Roma il vertice della FAO e il Papa, la terra può nutrire tutti, basta opulenza e sprechi. Obama agli studenti cinesi, niente censura su internet. Processo Mediaset, rinvio a gennaio, Ghedini, il premier sarà presente in aula. Ancora un record per l'oro. Buona giornata a tutti dalla redazione, da Annarita D'Ambrosio. In primo piano dunque al vertice FAO sulla sicurezza alimentare. Oggi è stata la giornata del Papa. Ci colleghiamo allora subito in diretta con Maria Chiara Grandis. Maria Chiara. Sì, buongiorno. È stato Papa Benedetto XVI l'ospite più atteso nel primo dei tre giorni del vertice della FAO che si è aperto a Roma. Il pontefice i lavori del summit e, concludendo il suo discorso in francese, ha sottolineato l'importanza dell'intervento delle istituzioni per risolvere il problema della fame nel mondo, ma soprattutto ha condannato l'indifferenza dei paesi più ricchi. Non è possibile continuare ad accettare opulenza e spreco quando questo dramma assume dimensioni sempre maggiori, ha detto il Papa, aggiungendo che la Chiesa non intende interferire nelle scelte politiche, bensì unirsi allo sforzo per eliminare la fame. Prima dell'intervento di Benedetto XVI è stato il premier Berlusconi a rinnovare l'invito ai grandi del G8 di mantenere gli impegni di investimento nell'agricoltura dei paesi in via di sviluppo, tutte promesse fatte al summit dell'Aquila, impegni che per oggi sembrano vacillare data l'assenza di molti dei maggiori leader mondiali come il presidente degli Stati Uniti Obama, come ha voluto sottolineare il colonnello Gheddafi. Questa mattina è intervenuto anche il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon per chiedere azioni concrete ai governi contenute nel documento approvato oggi. In questo momento sul palco stanno ancora intervenendo i capi di Stato e di Governo degli oltre 60 paesi rappresentati al vertice per la sicurezza alimentare. Per il momento da Roma è tutto, lì allo studio. Grazie a Maria Chiara Grandis. Dunque l'intervento del Papa è stato quello più atteso, ma tanti grandi leader, lo avete sentito nel collegamento in diretta con la capitale, non ci sono, non partecipano a questo vertice della FAO, a partire dal presidente americano Barack Obama, che è a Shanghai, dove ha incontrato oggi un gruppo selezionato di studenti cinesi. La Casa Bianca ha trasmesso tutto in diretta sul suo sito internet. L'evento è seguito sul web e proprio internet senza censure e la libertà di espressione sono tra i temi affrontati da Obama, che ha risposto alle domande di alcuni giovani cinesi a Shanghai. Buon pomeriggio, si sforza di dire in cinese, scatenando gli applausi. It is a great honor for me to be here in Shanghai and to have la prima domanda di una studentessa sulle relazioni tra le due potenze. And what's your name? My name is Chen Xi and Obama non risparmia elogi alla nazione che lo ospita, ma ricorda anche come i diritti umani siano universali e vadano applicati dovunque, anche in Cina, dove i dissidenti sono incarcerati e i diritti delle minoranze schiacciati. Torna poi sul tema del clima, dopo il vertice APEC di Singapore, che ha praticamente sepolto la speranza di un accordo globale a Copenaghen. Cina e Stati Uniti, tra i maggiori consumatori d'energia, devono fare degli importanti passi in avanti e sviluppare nuove strategie, dice Cristina Ballotelli, GR24, il sole 24 ore. In questo vertice tra gli Stati Uniti e la Cina, al primo posto dell'agenda c'è la questione dei rapporti commerciali, ma si parlerà, lo avete sentito, soprattutto anche del clima in vista del vertice ONU di Copenaghen a dicembre. Però proprio sul fronte climatico America e Cina frenano e adesso, svuotato del suo vero senso, che cosa diventerà quel vertice di Copenaghen? Cristina Carpinelli lo ha chiesto a Philippe Schallmann, economista specializzato in temi ambientali e professore all'Università di Parigi. Dunque, cosa accadrà al vertice di Copenaghen? Siamo in quella situazione di mezzo che fa dire a tutti i paesi di essere formalmente d'accordo sulla riduzione dei gas serra, ma poi però gli accordi non vengono stipulati. Ed è chiaro che tutto questo ci cadrà addosso. Ad esempio, se parliamo di rifiuti, sappiamo che produciamo 4 miliardi di tonnellate l'anno di rifiuti in tutto il mondo. Il loro trattamento aumento pesa sulla produzione di CO2. Gli Stati Uniti sono responsabili di circa 226 milioni di tonnellate l'anno, una cifra simile la produce l'Europa. La Cina, ad esempio, produce circa la metà dei rifiuti, ma non si può ragionare così. Si deve ragionare nell'insieme, si deve pensare a investimenti per la riduzione dei gas a serra nei paesi in via di sviluppo soprattutto. Much more financing for projects, especially in developing countries. Parliamo di giustizia adesso, che sul fronte della politica interna resta sicuramente il tema più caldo, anche perché oggi è partito il processo sul caso dei presunti fondi neri creati con la compravendita di diritti TV da parte di Mediaset. Allora, in diretta dal Palazzo di Giustizia di Milano, Raffaella Calandra. Legittimo impedimento per Silvio Berlusconi fino al 18 gennaio 2010. Nel frattempo solo altre due udienze tecniche per decidere la riunificazione di questo processo con lo stralcio a carico di Confalonieri. Dopo 14 mesi di sospensione, ripresa a metà dunque per il processo sui diritti televisivi Mediaset. Gli avvocati del Premier, infatti, dopo aver già presentato istanza di rinvio per l'impossibilità di Berlusconi di essere presente oggi a causa del la coincidenza col vertice FAO, con una lettera della segreteria di Palazzo Chigi hanno indicato le prime due date disponibili, il 18 gennaio appunto e il 25, perché il Premier intende essere presente, ha ribadito l'avvocato Niccolò Ghedini. Sentiamo. Il Tribunale ha invece ritenuto corretta l'indicazione delle date che noi abbiamo fatto per la partecipazione effettiva e quindi al 18 gennaio. Nel frattempo noi non abbiamo frapposto nessun impedimento a che il processo continui per le parti procedurali, tant'è che si faranno altre due udienze e quindi credo che sia dimostrato che non c'è nessuna volontà dilatoria, ma si vuole effettivamente poter partecipare al processo. In un'aula gremita anche di testate straniere, il PM Fabio De Pasquali in apertura dell'udienza aveva contestato l'esistenza di impedimenti assoluti. Non possiamo fare udienza solo quando può l'imputato Berlusconi, aveva obiettato. Il 27 novembre intanto riprende per il Premier anche il processo Mills. E per ora dal Palazzo di Giustizia è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. C'è un'altra inchiesta che fa discutere, su cui ha posto ieri i riflettori la trasmissione televisiva Report. Riguarda la banca Arner Italia, istituto commissariato da Banca Italia per violazione delle norme sul riciclaggio. Tra i clienti anche la famiglia Berlusconi. 60 milioni di euro. A tanto ammonterebbe il deposito totale dei quattro conti correnti aperti dalla famiglia Berlusconi presso la sede milanese della svizzera Banca Arner. Lo rivela la nuova inchiesta firmata Report. Il conto numero uno della banca, 10 milioni di euro, sarebbe intestato direttamente al Premier, gli altri tre alle holding amministrate dai figli Marina e Pier Silvio. Tra i clienti della banca, con sedi anche a Nassau e Dubai, ci sarebbero anche Ennio Doris, fondatore del gruppo Mediolanum, e Stefano Previti, figlio di Cesare. Fondata nel 1994, Banca Arner e i suoi soci, sostiene l'inchiesta, sono stati al centro di varie disavventure giudiziarie. Dagli accertamenti della Procura di Palermo su depositi riconducibili al costruttore Francesco Zummo, legato al clan Ciancimino, fino al commissariamento deciso nel 2008 da Banca Italia per gravi irregolarità in materia di contrasto del riciclaggio. Non sarebbe opportuno per il Premier, si chiede alla fine Milena Gabanelli, prendere i suoi 60 milioni di euro e spostarli in una banca italiana un po' più trasparente? Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo in Sicilia. Trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo il boss Domenico Raccuglia, arrestato ieri dagli agenti della sezione Catturandi e dello SCO dopo 13 anni di latitanza. Per lui arriverà presto il decreto per il 41 bis. È stato appena trasferito dalla questura di Palermo al supercarcere Pagliarelli il boss di Altofonte, Mimmo Raccuglia, arrestato ieri pomeriggio dopo 13 anni di latitanza. Gli investigatori della squadra mobile di Palermo lo hanno scovato a Calatafimi, in provincia di Trapani. È il numero 2 di Cosa Nostra. Il boss di Altofonte era ospite di una coppia di insospettabili che è stata arrestata. Al momento dell'irruzione degli agenti era solo in casa e ha tentato una fuga dal terrazzo, dal quale ha lanciato una borsa con soldi, documenti e pizzini. poliziotti lo hanno bloccato. Con sé aveva anche due pistole. Mimmo Raccuglia, 45 anni, soprannominato il veterinario, un tempo uno degli uomini più vicini a Giovanni Brusca, boss di San Giuseppe Iato, oggi collaboratore di giustizia, è riuscito a estendere col tempo il suo potere fino al mandamento di Partinico. Al momento dell'arresto il ministro della giustizia ha dichiarato: appena riceverò le carte immediatamente firmerò il decreto per il 41 bis. Alessia Bivona, GR24 Il Sole, 24 ore, Palermo. In occasione dell'ottava edizione della Settimana della Cultura d'Impresa promossa da Confindustria, Musei Impresa organizza un articolato calendario di eventi per leggere attraverso il patrimonio culturale delle imprese la storia del nostro paese. Il tema di questa edizione 2009 è creatività d'impresa e cultura dello sviluppo. Oggi l'associazione Archivio Storico Olivetti propone una mostra nella sua sede di Villetta Casana di Ivrea in provincia di Torino ed una rassegna di film storici. Il direttore dell'Archivio Storico Olivetti, Eugenio Pacchioli, al microfono di Adriana Fracchia. È una mostra che noi abbiamo realizzato sulla base di una grande mostra che facemmo nel 2008 per celebrare i 100 anni della Olivetti. È una mostra che in pratica è una selezione di quella grande. Gli argomenti puntano essenzialmente sul progetto industriale. Sull'Olivetti è stato fatto molto, anche delle mostre sulle architetture olivettiane, sul design, ma non era mai stata fatta un'esposizione, una riflessione sul progetto industriale, proprio sul progetto dei prodotti, quindi sulle tecnologie, sulla produzione in sostanza di beni. E noi volevamo proprio sottolineare, sia con la mostra del 2008, sia con questa mostra permanente qui nei nostri spazi, vogliamo sottolineare l'importanza del progetto, cioè del fare, rispetto alla mera enfasi che viene data alla finanza. È importante perché se non creiamo dei beni, non riusciamo a gestire la nostra società nel suo complesso. Questa è un po' la filosofia. Bisogna progettare, bisogna creare dei beni, bisogna inventare, bisogna creare ricchezza. La ricchezza la creiamo con la progettazione. Abbiamo parlato di imprese e c'è stata una grave perdita oggi nel mondo dell'imprenditoria. Marcellino Gavio, uno dei maggiori imprenditori italiani in campo autostradale, è morto all'età di 77 anni. Adesso, come anticipato, parliamo invece del record dell'oro. Ci racconta tutto in diretta Deborah Rosciani. Deborah. Buongiorno Narita. Sì, decisamente un avvio di settimana scintillante. Se dobbiamo così un po' valutare quello che sta accadendo quest'oggi, sia per le borse ma soprattutto, come indicavate, per il metallo giallo. Una corsa inarrestabile che ha visto questa mattina l'oro toccare e raggiungere un nuovo massimo storico sulle piazze asiatiche, ed è una tendenza questa che è in corso da un bel po' di tempo, ed è una tendenza determinata soprattutto dall'indebolimento del dollaro. A quanto è arrivato l'oro? Ha sfondato quota $1,130 l'oncia. Tra l'altro sulla sua scia si è mosso anche il platino, che ha toccato i massimi dal settembre 2008. Nel dettaglio, il metallo prezioso è salito a $1,130,43 per poi ripiegare. La tendenza di oggi sarebbe stata favorita anche dalle dichiarazioni di Evie Hambro, gestore di un grande fondo di investimento BlackRock e anche un consulente della Banca Centrale Americana. Secondo le sue dichiarazioni, l'oro salirà ancora e le banche centrali continueranno ad essere compratori netti di oro per tutto l'anno. Tutto questo naturalmente sta portando su tutti i titoli del settore. Per esempio Rio Tinto a Londra sta guadagnando il 5%, ma oggi è complessivamente una buona giornata per i mercati. Anche Piazza Affari sta guadagnando oltre un punto percentuale. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Dopo il no di Brunetta, il ministro Frattini ha confermato poco fa il sostegno alla candidatura di Massimo D'Alema a ministro degli esteri dell'Unione. È nell'interesse nazionale dell'Italia, ha detto Frattini, affermando che le opinioni del ministro Brunetta sono personali. La cronaca italiana. Michele Lambiase, il 47enne che nella notte tra sabato e domenica scorsi, lo ricorderete, aveva sparato in un parcheggio di Montesilvano in Abruzzo alla ex convivente del suo fidanzato, ferendolo in modo grave, è stato trovato morto questa mattina sulla tangenziale di Foggia. Si sarebbe suicidato. E poi ci sono novità sul caso Cucchi. Macchie rosse, sicuramente di sangue, sono state riscontrate sui pantaloni di Stefano, il jeans che indossava il 17 ottobre scorso quando fu ricoverato nell'ospedale Sandro Pertini. Ora la Procura di Roma vuole accertare se quelle tracce siano effettivamente ematiche e se appartengano a Cucchi. Per questo motivo gli inquirenti hanno disposto una consulenza tecnica. La salma di Cucchi intanto sarà riesumata, questo si è saputo poco fa, il 23 novembre prossimo. Restiamo nella capitale. Dalle 10 di questa mattina Roma è diventata la prima grande capitale all digital d'Europa, un passaggio epocale che vedrà 4 milioni e mezzo di cittadini dire addio alla TV analogica. I decoder costano alcune decine di euro e per chi ha più di 65 anni e un reddito inferiore ai 10.000 euro annuali è previsto un contributo di 50 euro. Sul mercato sono disponibili anche soluzioni meno ingombranti rispetto ai classici decoder, come spiega Gianfranco Giardina, esperto di video digitale del sito dday.it. Esistono dei ricevitori molto piccoli che in realtà sono come delle prese SCART un pochino allargate, che quindi restano ospitate dietro il TV e che di fatto però integrano tutta la logica del ricevitore e quindi permettono di aggiungere la funzionalità digitale terrestre ai TV senza avere un box esterno da appoggiare da qualche parte, no? Il classico set-top box, appunto. Resta comunque per tutti coloro che scelgono il ricevitore esterno un limite logistico, e questo resta sempre finché non si cambia TV, il fatto di avere due telecomandi, quindi un telecomando per accendere l'apparecchio TV e poi bisogna impugnare l'altro telecomando, quello del decoder digitale, per cambiare canale. L'intervista era del nostro Enrico Pagliarini. Intanto a Roma tutte le emittenti nazionali sono già accese in digitale terrestre, quasi tutte le TV locali. È un primo punto della situazione che ha fatto poco fa il Ministero per lo Sviluppo Economico, Dipartimento per la Comunicazione, proprio in relazione allo switch off, cioè all'addio definitivo alla TV analogica a Roma, prima grande capitale europea a diventare tutta digitale. Al call center che è stato messo a disposizione al Ministero, al numero verde 800 02 20 00, alle 12 erano arrivate, pensate, 20.000 telefonate, oltre 20.000 telefonate. Per il 90% dei casi si trattava di richieste di assistenza per la risintonizzazione dei decoder. Dalla capitale, dal Lazio, ci spostiamo in Campania e torniamo alla politica con il nostro sondaggio di oggi. Lui ha già detto no grazie perché vuole rimanere uno scrittore super partes e incidere con l'unico strumento che conosce, la parola. Eppure da più parti è stata lanciata la proposta di candidare Roberto Saviano alla regione Campania. Ma voi che ne pensate? Candidereste l'autore di Gomorra per risollevare la politica? Era questa la domanda del nostro sondaggio di oggi e vi siete divisi, il 56% di voi ha detto sì. Nettamente contrario è un pensatore ed ex politico di sinistra come Biagio De Giovanni. Io ho molto rispetto per la nobiltà della politica, anche se dirlo di questi tempi può sembrare appunto un'astrazione da filosofo. Ho letto altre cose, si candidino i magistrati antimafia, ma insomma non è possibile che in carenza di una politica che è stata carente in Campania come in tante altre regioni, si faccia questa scorciatoia per cui un illustre scrittore come Roberto Saviano, che ci dovrà dare altri libri e che ci dovrà dare altre battaglie contro la mafia, debba poi essere candidato a fare il presidente di una regione. Bianco Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di influenza. Sarà completata oggi la distribuzione del vaccino in tutte le regioni italiane, lo comunica il Ministero del Welfare. Il numero dei morti in Italia è salito a 58 e la Campania continua ad essere la regione più colpita. Ieri ci sono stati altri 3 decessi. Apriamo adesso la nostra pagina sportiva con una notizia che riguarda la Formula 1. La Mercedes lascia la McLaren e acquisisce la maggioranza della Brown GP, il team che ha conquistato entrambi i titoli iridati nel mondiale di quest'anno. A renderlo noto è stato il numero 1 della casa di Stoccarda. Nella stagione che si è appena conclusa, la Mercedes aveva fornito i motori al team guidato dall'ex ferrarista Ross Brown. E passiamo al calcio. La nazionale prepara in Romagna l'ultima amichevole del 2009, quella di mercoledì contro la Svezia a Cesena. Un'occasione preziosa per chi ambisce ad una convocazione per il mondiale. Chiarito che neanche Superman, come si è visto a Pescara, convincerà Lippi a convocare Cassano, la corsa ad una delle ultime 6 maglie per il Sudafrica entra nel vivo. Grand Hotel Italia, c'è chi esce e chi entra, le porte continuano a girare. In ribasso le quotazioni di Santon, il ragazzo è bravo ma se non gioca nell'Inter è escluso che Lippi lo porti con sé. A Cesena una bella chance per Cassani del Palermo e Maggio del Napoli. Oltre ai soliti noti, a giocarsi l'ultima chiamata in difesa restano Gamberini e Bocchetti, decisivo sarà il campionato. Il buon esordio contro l'Olanda ha convinto convinto il CT. Candreva può essere l'uomo giusto come vice De Rossi o Pirlo. Meglio di D'Agostino e Palombo, meno duttili tatticamente. Marchisio quasi certo, ha poche speranze per Montolivo. Gattuso, anima del gruppo, ci sarà anche con le stampelle. Tra gli attaccanti, oltre a Iaquinta e Gilardino, vedremo Amaurì, convocabile però solo alla vigilia del Mondiale. Conoscerà in ritiro molti dei suoi compagni d'avventura e forse lì troverà anche Totti, giunture permettendo, Pazzini e Giuseppe Rossi gli altri in pole position. Ma c'è un altro ruolo per il quale non mancano le candidature, è quello di erede di Marcello Lippi, che lascerà l'azzurro dopo il Mondiale. Secondo i bookmaker inglesi il favorito è Spalletti, davanti a Prandelli e Mancini. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di musica per chiudere. Tra rivoluzioni vere o presunte si comincia a parlare del Festival di Sanremo. Nel 60° anno una novità ci sarà davvero: come l'Italia, la canzone italiana diventa multietnica. Qualche giorno fa la rivelazione clamorosa, che però non era rivelazione né rivoluzione: canzoni in dialetto a Sanremo. In realtà, di fatto, negli ultimi anni se n'erano sentite, tra gli altri Peppino Di Capri, Tazenda, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Paideia, avevano cantato in napoletano, calabrese, sardo. Tranne l'ultima parte dove c'è una traduzione in lingua italiana, però insomma la parte più importante è tutta in lingua sarda, che poi è una parte della Sardegna, il Logudoro. Ma, segno dei tempi, questo sì, viene abolito il requisito della cittadinanza italiana per gli interpreti e per i compositori delle canzoni. Certo, cantanti stranieri se ne erano sentiti nei lontani anni dei duetti. Ciao! Stasera compri. Ora però, in tempo di globalizzazione, il nuovo regolamento prevede che possano gareggiare artisti stranieri con canzoni scritte da stranieri, purché eseguite in italiano. Insomma, per fare un esempio, Madonna potrebbe partecipare al festival cantando una canzone degli U2 all'unica condizione che il testo sia in italiano, o chissà, in qualche dialetto. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, vi lascio a Buongiorno America, un grazie in regia a Carmelo Lauricella, aggiornamenti del GR alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.